Possibile che Frankenstein di Mary Shelley sia stato ispirato da un bolognese, per la precisione dal fisico Luigi Galvani? Se vi sembra inverosimile, riflettete sul significato della parola galvanismo, la contrazione di un muscolo stimolato da una corrente elettrica. Certo, da qui a riportare in vita un defunto facendo attraversare il suo corpo da un fulmine ce ne passa, quindi per fare chiarezza è opportuno partire dal principio, quando Luigi Galvani, nel 1792, pubblicò il trattato De Viribus Electricitatis in Motu Muscolari, nel quale cui illustrava i suoi esperimenti sulle rane. Non a caso, nella piazzetta a lui dedicata, lo scienziato bolognese è raffigurato con in mano una tavoletta su cui è appoggiato un piccolo anfibio. Ma di che esperimenti si trattava? Galvani era convinto che ci fosse una relazione tra elettricità e vita e che il cervello fosse in grado di emettere impulsi elettrici che venivano trasmessi agli arti tramite i nervi. Se oggi il fenomeno è dato per scontato, sappiate che all'epoca le teorie di Galvani furono duramente contestate dai suoi contemporanei, persino da Alessandro Volta. E pensare che proprio gli esperimenti di Galvani contribuirono all'invenzione della pila voltaica. All'epoca non era dato per scontato che l'elettricità artificiale, ovvero quella prodotta in laboratorio, avesse la stessa natura dell'elettricità atmosferica, quella dei fulmini. Scrisse Galvani in uno dei suoi trattati. Dopo aver raggiunto le scoperte da noi finora esposte intorno alla forza dell'elettricità artificiale nelle contrazioni muscolari, fu nostro vivo desiderio indagare se la cosiddetta elettricità atmosferica producesse, oppure no, i medesimi fenomeni. Cioè se, seguendo i medesimi artifici, lo scoccare dei fulmini eccitasse contrazioni muscolari, così come quelle della scintilla. In sostanza, gli esperimenti di Galvani consistevano nel posizionare su una piastra di ferro una rana morta, opportunamente dissezionata, per poi stimolarne il midollo spinale e i muscoli tramite degli archi metallici. Queste ricerche portarono Galvani a intuire ciò che oggi è dimostrato, e cioè che la differenza di potenziale tra l'interno e l'esterno delle cellule è alla base dei segnali nervosi. Ma ebbero anche un imprevisto effetto collaterale. Spinsero alcuni a ipotizzare che si potesse ridare la vita tramite la trasmissione di impulsi elettrici. Vi ricorda qualcosa? Beh, sappiate che non è finita qui. Nel 1803, a Londra, Giovanni Aldini, nipote di Luigi Galvani, pubblicò il trattato An Account of the Late Improvements in Galvanism, un resoconto di esperimenti su cadaveri, questa volta umani, ai quali riuscì a indurre movimenti che assomigliavano a una rianimazione. Arriviamo così al 1816, l'anno senza estate, un anno così freddo che fu definito l'anno della povertà, o 1800 and froze to death, che tradotto significa 1800 e si moriva di freddo, ma anche l'anno che vide la genesi della creatura del barone Victor Frankenstein. Il 1816 è passato alla storia per la grave anomalia del clima che portò alla distruzione dei raccolti in tutto il mondo occidentale, forse causata dall'eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, avvenuta l'anno precedente. Questo fenomeno causò infatti l'immissione di un'enorme quantità di cenere vulcanica e gas pesanti negli strati superiori dell'atmosfera, riducendo la quantità di luce solare assorbita dal pianeta. Nel maggio di quell'anno, Claire Clermont convinse la sorellastra Mary Shelley e il marito a seguirla a Villa Deodati a Ginevra, che era la residenza del suo amante, Lord Byron. Il clima avverso, con piogge incessanti e frequenti, spinse gli ospiti a rimanere spesso confinati nei saloni della villa. La discussione finì per vertere sulle recenti innovazioni della scienza, sulle teorie di Darwin, ma anche su quelle di Galvani e di suo nipote, al lavoro del quale Lord Byron aveva già avuto modo di appassionarsi a Londra. Gli ospiti si trovarono a leggere insieme storie di fantasmi tedesche, da cui nacque la celebre sfida di Lord Byron. Ciascuno, durante il soggiorno a Ginevra, avrebbe scritto una storia di fantasmi. Fu così che Mary Shelley, turbata da un incubo, fece la prima stesura di ciò che diventerà l'immortale Frankenstein o il moderno Prometeo, un romanzo in grado di reinterpretare in chiave gotica tematiche universali come le implicazioni della creazione e la solitudine dell'essere umano, interpretando il sentimento che faceva parte della sua contemporaneità. Meraviglia e sgomento insieme di fronte alle infinite possibilità offerte dalla scienza. Un sentimento che fa ancora parte della società di oggi. Musica, maestro!